Sura 81. At-Takwir. L'oscuramento. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Quando sarà oscurato il sole, e spente le stelle, e messe in marcia le montagne, e neglette le cammelle gravide di 10 mesi, e radunate le belve, e ribollenti i mari, e divise in gruppi le anime, e quando verrà chiesto alla neonata sepolta viva per quale colpa sia stata uccisa, e quando saranno dispiegati i fogli, e scorticato il cielo, e attizzata la fornace, e avvicinato il paradiso, ogni anima conoscerà quel che avrà prodotto. Giuro per i pianeti che passano e che si occultano, per la notte che si estende, per l'aurora che esala il suo alito. Questa è la parola di un messaggero nobilissimo, potente ed eccellente presso il Signore del Trono, colà obbedito e fedele. Il vostro compagno non è un folle. In verità l'ha visto sull'orizzonte luminoso, non è avaro dell'invisibile. Questa non è parola di demone lapidato. Dove andate dunque? Questo non è che un monito rivolto al creato per chi di voi voglia seguire la retta via. Ma voi lo vorrete solo se lo vorrà Allah, il Signore dei mondi.